24 mattino, estate, di Gigi Donelli. Sono le 7:22 minuti, buongiorno a tutti da Gigi Donelli, da Peter Bescapè in regia. Eccoci qua dunque per qualche settimana, mentre il nostro Alessandro Milan si gode qualche appunto giorno di vacanza, noi naturalmente continuiamo attraverso 24 mattina a raccontarvi l'attualità, a raccontare gli eventi principali, gli umori, le preoccupazioni e purtroppo in questa calda estate dell'euro e non solo dell'euro, calda estate del lavoro, calda estate anche dello sport. Avete sentito un momento fa il nostro Dario Ricci raccontarci le ultime, anzi potremmo quasi dire le prime, anche se sono state due giornate intense, ma insomma i giochi olimpici sono appena iniziati, ci accompagneranno per tutta la prima parte del mese di agosto. Qui dunque l'appuntamento continua e come sempre comincia di primo mattino dalla lettura dei quotidiani. L'estate calda è quella di Taranto, per esempio, il caso Ilva in primo piano, in attesa. Avete sentito anche nei nostri giornali radio di come oggi anche per Taranto, per molti, inizi una settimana decisiva, la settimana più lunga secondo alcuni articoli che troviamo oggi nei quotidiani in edicola, quella che dirà insomma se c'è se c'è un futuro per l'Ilva, per Taranto. È cominciata a Roma questa settimana, in realtà nel fine settimana, con le parole del Papa, questo desiderio di manifestazione di vicinanza agli operai, alle famiglie, che appunto ha fatto prendere la parola su questo tema specifico al pontefice. Noi ne parleremo tra non molto, tra circa 50 minuti, con il sindaco di Taranto, Stefano Ippazio, che appunto si prepara con tutta la città a una giornata complessa, a giorni complessi. Ma dicevamo, le aperture, cominciamo dal Corriere questa mattina, segnale ai mercati per l'euro, perché ovviamente se è vero che sarà un'estate, una giornata, una settimana particolarmente calda per il sud, concentrato oggi non solo simbolicamente su Taranto, lo è e continua ad esserlo da settimane e mesi per l'Europa intera. E quindi, dopo l'intervento rassicurante di Draghi, oggi asta dei BTP e il vertice Germania-USA. La nuova, diciamo, parola d'ordine o quasi slogan è: difenderemo la moneta unica a tutti i costi, dopo quanto detto appunto da Draghi. E così la telefonata Merkel-Monti, che ribadiscono il concetto: difenderemo la moneta unica. Un ulteriore segnale ai mercati dopo appunto quello di Draghi, la vigilia di un test sul debito, un test che si annuncia molto delicato. Uniti salveremo l'euro è l'apertura dunque identica, cambia le parole, rimane la scelta della notizia d'apertura per Repubblica, così come per La Stampa è Monti Merkel il patto per l'euro, e Juncker polemico con Berlino, dice appunto Juncker l'UE non è una filiale della Germania. Ecco, questo è un tema ricorrente, poi vedremo appunto come si declina su altri quotidiani. Naturalmente i giochi olimpici, la delusione, il dolore di Federica, si parla in alcuni casi di affondamento, mi sembra, ecco per esempio La Stampa dice Pellegrini shock, affonda nei 400, un anno di stop, parole pesanti anche, che sembrano un po', a mio avviso, anche ridurre un po' la memoria collettiva di questi intorno a questi atleti che ottengono risultati straordinari, ma in alcune giornate non fanno altrettanto. Certo, arrivare negli 8 migliori del mondo, di fatto quello che accade arrivando in una finale olimpica, per alcuni è una delusione, per alcuni è affondare, per molti altri rimarrebbe il sogno di una vita. Quindi i giochi olimpici come altro, provaci ancora fede, ecco il giorno da questo punto di vista, diciamo, mette in luce più l'aspetto prossimo venturo, che è immediato, visto che ora punterà sui 200. Quindi delusione, stacco per un anno anche in questo caso. Ma andiamo a vedere, visto che abbiamo fatto un passaggio sul fronte sportivo, quello che è la Gazzetta dello Sport oggi, che apre sull'Italia Forza 7. Dopo le 5 medaglie di sabato sono arrivati l'argento di Occhiuzzi nella sciabola e il bronzo della cattiva ragazza Forciniti nel giuto. L'avete sentita durante GR24, appunto, salutare, come lei stessa ha detto, la sua regione d'origine, la Calabria, anche se raccontava appunto da molti anni vive a Roma. Quindi gioie e dolori per la Gazzetta, mentre di nuovo Federica affonda, però è un'Italia Forza 7. Noi naturalmente continueremo giorno per giorno i nostri appuntamenti per raccontarvi le Olimpiadi londinesi, che ancora, mentre ancora abbiamo negli occhi la grande apertura, la grande festa di venerdì, appunto, che ha aperto la trentesima Olimpiadi dell'era moderna. Altro grande tema di tutt'altro tenore e impatto è quello che riguarda la Siria dei ribelli. Vendo l'auto per un mitra, per esempio, il titolo scelto dalla stampa stamattina per raccontare il viaggio di Domenico Quirico, in questo caso il viaggio tra i protagonisti dell'assedio di Aleppo. Aleppo viene indicata oggi, da qualche giorno, come appunto la città chiave per il futuro, per il futuro del regime di Assad, anche se le immagini che passano e che ci raggiungono dalla Siria indicano che insomma sembra impensabile che ci sia un futuro per un regime che utilizza tutto l'arsenale, compreso i caccia, gli elicotteri, i mortai e insomma l'intero arsenale militare contro la propria gente. Altri temi scelti, per esempio l'Unità affronta quello della politica e dunque l'apertura è Bindi al PDL, fermatovi o si vota la riforma elettorale, e dunque in primo piano per la scelta dell'Unità, che affianca invece alla foto a centropagina del sindaco Alemanno una vicenda appunto che riguarda il Campidoglio, neofascista in comune Alemanno nella bufera. C'è dunque spazio per la politica, che ha chiesto, ha coinvolto anche Monti nella richiesta di un aiuto a trovare una chiave per definire nei tempi che servono appunto un sistema elettorale alternativo. Eccoci qua al Sole 24 Ore invece del lunedì, quindi studi protetti contro gli errori, che il Sole oggi ci parla della settimana decisiva invece per un altro fronte, per la riforma delle professioni. Infatti il governo approva in via definitiva il provvedimento destinato a cambiare l'attività di oltre 2 milioni di professionisti. Nel Sole 24 Ore oggi trovate dettagli appunto per molte, per le professioni coinvolte. Questo riguarda il tirocinio, la formazione continua, le polizze contro i danni, i meccanismi disciplinari degli ordini. Questo il Sole 24 Ore oggi del lunedì naturalmente. Il Messaggero invece, l'apertura è sul tema che abbiamo citato, insomma sul tema di politica internazionale, che aggancia quindi le complessità e le difficoltà della crisi ai temi europei. Monti, Merkel uniti nella crisi, mentre per il Giornale si parla di stangate in arrivo, basta con Monti. Questa è l'apertura, è il titolo di apertura, che dice: imposte più alte, consumi crollati, spread senza soluzione, altro che ricandidarlo a premier, rimandiamolo a casa. Questo è insomma il tenore, ecco, delle aperture di oggi. Allora, su questo fronte, restando sul tema dell'Europa e delle iniziative prese per affrontare la crisi del debito, voglio segnalarvi almeno due interviste. Una su Repubblica e quella realizzata da Eugenio Corso Nurel Rubini, professore di economia alla New York University, Bocconiano, laureato in Bocconi, poi dottorato ad Harvard, il guru cosiddetto della New York University, che già, come dire, concede, Rubini è sempre molto prudente o addirittura scettico sulle iniziative europee, in questo caso dice forse è evitata la tempesta perfetta, ora però dice bisognerà passare ai fatti. Ci tiene, spiega appunto Eugenio Corsio Rubini, a non passare per un pessimista ad oltranza, solamente invita a riflettere con realismo sui metodi possibili per uscire in maniera definitiva dalla crisi, e dice lo scenario della tempesta perfetta su scala globale non è più l'ipotesi di base. Si prevedeva la crisi irrimediabile dell'eurozona, la recessione americana, l'hard landing cinese, lo stallo dei paesi in via di sviluppo, un'impennata dei prezzi sul petrolio, tutti elementi ancora sospesi ma con un cambiamento importante. Il tracollo dell'eurozona forse, dice Rubini, sarà evitato, però serve tempo e il 2012 non è sufficiente, non sarà sufficiente, ci vorrà tutto il 2013 e aggiunge saranno anni duri su scala globale, anche se la più drammatica di queste crisi, quella europea, non è più una certezza negativa. Ecco quello che secondo l'economista appunto americano accade, è accaduto in realtà in queste settimane. Lui era appunto tra coloro che in più di un'occasione avevano di fatto accarezzato il concetto di certezza negativa, ora non lo è più, e anche sulla recessione americana c'è spazio per una piccola correzione, dice Rubini. Gli USA procedono a velocità di stallo, ma nel 2013 cresceranno anche se di non più dell'1%. Insomma, cosa serve? Serve un intervento davvero massiccio, continuato, persistente e non sterilizzato. È chiaro qui di nuovo il ruolo, il peso, l'indicazione rivolta alla Banca Centrale Europea, e Rubini dice un ruolo che resta altamente improbabile. Bisogna essere pronti al fatto che gli investitori testeranno l'impegno della BCE, inizialmente vendendo titoli in gran quantità e forzando la banca ad impegnarsi sempre su sempre più vasta scala. Insomma, dalle parole da cui di fatto oggi abbiamo anche aperto citandole la rassegna stampa, quindi su quell'essere pronti a tutti, al fatto di dimostrarlo. E Rubini ricorda già giovedì si vedrà se le parole di Draghi erano solo un esercizio verbale o qualcosa di più sostanziale. L'altra intervista che vi segnalo invece su questo tema, e restiamo diciamo dall'osservatorio americano con un richiamo in prima pagina sul Corriere della Sera, è quella invece dell'intellettuale conservatore, così diamo un'occhiata anche all'altro fronte di pensiero americano. In questo caso è Arthur Brooks, il capo dell'American Enterprise Institute, che di fatto con il suo ultimo libro ha definito quello che è il manifesto per il candidato repubblicano alla Casa Bianca, candidato repubblicano che tra l'altro in queste ore visita Israele dopo il passaggio londinese. Ma insomma, restiamo alla nostra intervista. L'ideologo dei conservatori titola al Corriere: il modello europeo è fallimentare, importarlo ci porterebbe al disastro. Ecco, Arthur Brooks, 48 anni, è molto fermo nell'affermare questa posizione sull'Europa e dice: abbiamo tutti un enorme rispetto per la storia e la cultura del vostro continente, ma il modello che avete scelto è fallimentare, importarlo porterebbe anche l'America al disastro, per questo ci sentite così animosi, per questo siamo duri con Obama, e non è solo una questione economica. Almeno il vostro welfare costosissimo e insostenibile fosse servito a far sentire i popoli soddisfatti. Invece no, lo Stato baglia ha reso la gente ancora più infelice. Non ci crede, dice appunto Brooks a Massimo Gaggi che lo intervista. Sondaggi e statistiche dicono che i paesi più assistenziali sono anche quelli più insoddisfatti e con meno nascite, anche se quest'ultimo punto anche francamente non mi torna, mi viene in mente l'approccio francese che sicuramente in tasse di natalità è tra i più attivi in Europa e sicuramente, anzi c'è proprio polemica invece sul fronte francese per l'eccesso di sostegno e assistenzialismo, soprattutto all'interno della famiglia formale o informale che sia. Comunque Brooks dice, sfidando i venti di sfiducia nel mercato che soffiano anche in America da 4 anni, alimentati dagli eccessi del capitalismo finanziario e dal crollo di Wall Street, ha deciso così di lanciare una campagna etica. Il suo ultimo libro, The Road to Freedom, quindi la strada verso la libertà, è stato presentato dai media americani come un manifesto ideologico per la campagna di Mitt Romney, che da ex imprenditore si ispira agli stessi valori, ma forse non ha voglia di legarsi a uno schema troppo rigido. E anche Brooks, che sta trasformando la IA, la centrale dei neocon, gli esportatori di democrazia, in un'entità che guarda di più ai cambiamenti interni, vuole tenersi le mani libere. Insomma, il titolo, l'assistenzialismo uccide Atene e contagia gli USA, questo è l'intervento, l'intervista, il punto di vista di Arthur Brooks, che fa il paio con quella di Nouriel Roubini, professore di economia alla New York University. Vediamo un po', a proposito di europei, la stampa, tra i racconti, gli articoli di oggi in pagina, ci racconta la vacanza degli spagnoli. Gli spagnoli riscoprono le mini vacanze a due passi da casa, non solo loro, ma sicuramente anche per la Spagna. Questa è un'estate di cambiamenti, di ritorno, di riflessione, di preoccupazione. Il turismo, ricorda nel reportage Marco Alfieri, vale l'11% del PIL, è l'ultimo fortino contro la recessione. Questo articolo ci interessa perché certo parla della Spagna, ma credo che non sfugga a nessuno quanto sia vero gran parte di ciò che appunto andiamo poi a leggere anche per l'Italia. Ma sono in molti, scrive Alfieri, nella Spagna falciata dallo spread a tornare all'antico dopo 15 anni di Bengodi. Alle ferie non si rinuncia, ma ci si organizza meglio. Carmen e Antonio restano sul mare vicino. Chi ha la casa di famiglia torna al paese come quando era ragazzino. Non venivo in estate, racconta questa coppia spagnola El Pinillo da 25 anni e si emoziona pure in un esercizio che è di risparmio, appunto di prudenza, ma che poi, come a volte spesso si rivelano appunto queste esigenze, anche una soddisfazione e una grande emozione. Sul mare spumoso dell'Andalusia, Spagna più Spagna, che ci sia 1,5 milioni di disoccupati e lavoro nero dappertutto, la crisi picchia duro. Eppure è proprio il turismo, è l'ultimo fortino iberico, sta tenendo a galla il paese. Nei primi 6 mesi dell'anno è cresciuto del 2,5%, portando in cassa 20 miliardi di valuta buona. Lungo i 160 km di spiaggia che corre da Neri a Manilva, ragazzi, pensionati e famiglie straniere arrivano a gettito continuo. Specie di sabato che è giorno di cambio dei pacchetti dei tour operator. Ecco, questo è un altro elemento ricorrente per le vacanze di questo anno, di crisi. Quindi la settimana maggiore impatto quindi sui momenti canonici, il sabato, il cambio della casa, il cambio appunto del luogo di villeggiatura. E il racconto prosegue citando Torremolinos, Malaga, Marbella, le molte località di questo grande paese, dove, conclude Alfieri, su lungomare passeggia il tipico turismo da riviera pop, ragazzini che puntano alla discoteca insieme a famiglie polacche con figli piccoli. Nel frattempo la Playa Macareña, italiani e inglesi si sfidano a racchettoni. Insomma, il mondo va avanti anche stando dietro casa e naturalmente con forse anche la sensazione e il sentimento di essere fortunati a farlo, perché non dimentichiamolo, sono anche in molti quelli che restano invece a casa, non solo in tutta Europa. A questo proposito, in Francia, un dato appena pubblicato dal Credoc, che è appunto un istituto statistico, era ieri in prima pagina su Le Parisien, quindi un quotidiano vastissima diffusione della capitale, diceva che in questo 2012 sarà il 42% dei francesi a rinunciare alle mete estive al mare o in montagna. Naturalmente la causa è la crisi che scuote l'Europa. Solo il 58% dunque dei francesi ha potuto concedersi le agognate vacanze. E di fronte a questi dati, tra l'altro, il ministro transalpino del turismo Silvia Pinel pensa di lanciare un piano per facilitare la partenza delle famiglie più povere e ridurre quelle che in Francia è stata ribattezzata come la frattura sociale turistica che si sta aprendo tra i ricchi e i poveri. Come vi ho detto, intorno alle 8:20 il sindaco di Taranto, Ipazio Stefano, sarà con noi. Oggi l'attende una giornata che proprio si apre dal Consiglio Comunale, quindi l'incontro tra il presidente Ferrante, previsto tra gli altri appuntamenti di oggi, e il procuratore Sebastio. A questo punto è proprio il procuratore che nell'articolo che troviamo oggi nelle cronache, quindi lontano in realtà dalla prima pagina della Stampa, il procuratore dice: non c'è nessuna trattativa in corso, si sfoga il procuratore, non ci può essere, sono in corso delle procedure molto complesse per attuare le indicazioni del GIP, insomma fino a prova contraria si devono spegnere i 6 impianti inquinanti indicati dal GIP. Patrizia Todisco, ne torneremo a parlare, come avevo detto, tra una quarantina di minuti circa. Parlavamo invece di vacanze, allora vacanze dei big in sintesi, mentre Angela Merkel, il cancelliere appunto tedesco, sceglie l'Alto Adige, solda, Monti impone ferie brevi, una settimana, Rajoy si prepara una versione di vacanza low cost in Galizia dal fratello, Cameron resta a casa a godersi le Olimpiadi e quindi ne ha anche ragioni, ne ha ben donde, visto lo spettacolo che avviene letteralmente sotto casa sua. Tra l'altro è stato, come dire, i giornali inglesi su questo aspetto hanno ricamato non poco, ma proprio sotto le finestre di Downing Street c'è il torneo di beach volley, quindi ci sono stato un fiorire di vignette su questo tema che riguardano il primo ministro, mentre Hollande, dunque il presidente francese, andrà in Costa Azzurra nella modesta villa di Stato, così viene definito, mentre l'estate del presidente degli Stati Uniti Obama è un'estate in campagna elettorale, ormai rinunciato al soggiorno a Martha's Vineyard, l'enclave delle élite nel New England, e eviterà anche la spiaggia di La Jolla in California. Insomma, si concentra il presidente degli Stati Uniti su quello che ormai è davvero l'ultimo round della sua corsa per quella che appunto per lui auspica essere il rinnovo del suo mandato presidenziale all'inizio del mese di novembre. Questo, abbiamo dunque parlato di vacanze delle masse, vacanze invece dei leader. Adesso qualche minuto ci prendiamo almeno per segnalare alcune notizie dall'estero, partendo naturalmente, l'abbiamo accennato, a quello che sono gli eventi drammatici che ormai da più di un anno vedono la Siria, quello che all'inizio di quella che viene definita ormai la grande primavera araba sembrava il più stabile dei paesi della regione, e invece emerge come il più sfortunato, drammatico, sanguinoso per l'entità della rivolta e della repressione. La sfida finale, la battaglia finale di Assad, li schiacceremo. Questo è proprio la posizione che viene appunto definita dal governo contro gli insorti, e proseguono gli scontri al confine con la Turchia. Intanto si riparla della richiesta di una no fly zone, fare come a Bengasi di fatto significa per le forze ribelli auspicare, evocare un intervento armato della comunità internazionale. Allora fu appunto la Francia seguita dall'Europa intera. In questo caso sono ferme le posizioni invece contrarie e di Russia e Cina. Un conflitto di religioni come in Bosnia e in Iraq è invece il quadro che viene indicato oggi da Roberto Tottoli sul Corriere della Sera. Dunque Iran, Hezbollah, Turchia, Emirati del Golfo, le forze esterne si scontrano per il futuro del paese e rendono e alimentano della a dismisura quella che è appunto la complessità di un paese vasto con una popolazione ridotta, ma che storicamente da decenni viene di fatto governato da una minoranza. E oggi la radicalizzazione del conflitto anche sul terreno dello scontro settario, scrive Tottoli, con sciiti alawiti, sunniti, cristiani, drusi, è un dato di fatto ormai da mesi. Il protrarsi della crisi ha però via via richiamato attorno ai contendenti sul terreno le potenze della regione, dall'Iran alla Turchia, entrambi sono paesi confinanti, paesi coinvolti pesantemente anche nelle scelte e nel futuro della Siria, ma anche da Israele all'Arabia Saudita, ai paesi del Golfo. Nelle ultime settimane le notizie che si rincorrono lasciano presagire ben più di una partecipazione ideale o politica da parte di questi paesi. Naturalmente tra infiltrazioni, le frontiere sono molto lunghe poi della Siria, coinvolgimenti, rifornimenti militari in armamenti e competenze militari alle parti, insomma si sprecano. Di qualche giorno fa, prosegue Tottoli, la notizia che gli uomini di Hezbollah combatterebbero al fianco dell'esercito di Assad. La notizia non è stata subito smentita, come un anno fa, a dimostrazione che la scelta degli sciiti libanesi di aggrapparsi al regime alawita non è mai stata in dubbio. Ecco dunque lo storico legame. Per anni abbiamo parlato del Libano sotto mandato siriano, ora la crisi del regime di Assad ribalta quasi la situazione. La notizia, non dicevo appunto, non è stata smentita, come un anno fa, dimostrazione che la scelta degli sciiti libanesi di aggrapparsi al regime non è mai stata in dubbio. Un'analisi interessante che poi si sviluppa sulle implicazioni di una crisi letta attraverso la cartina tornasole dei gruppi etnico-religiosi del paese. E noi cambiamo argomento e cambiamo anche quadro geografico per due notizie dagli Stati Uniti. Una riguarda la crisi della produzione agricola. Oggi sul Messaggero: la siccità USA spaventa i mercati, a secco la produzione di mais, macellati interi allevamenti, troppo alti i prezzi dei mangimi. Dunque la produzione agricola, secondo gli ultimi allarmi, per il 60% è inutilizzabile nelle aree centrali degli Stati Uniti. Dunque nel Midwest non piove da quasi tre mesi, le temperature superano i 40 gradi. Parliamo, e l'abbiamo anche sentito nel nostro appuntamento con il metodo, dell'impatto climatico, quindi della calda estate in termini di temperature. Per gli Stati Uniti questa calda estate va avanti ormai da settimane. La pioggia, scrive Flavio Pompetti da New York, la pioggia è caduta con regolarità quest'estate sulle fasce costiere degli Stati Uniti, maturando i pomodori ad est, l'uva a ovest, ma il centro è rimasto all'asciutto, la Corn Belt, proprio nelle ultime 11 settimane, e lo stato d'emergenza federale copre ora più di 1500 contee. La primavera era partita con il giusto equilibrio di umidità, tanto che il Ministero dell'Agricoltura si era sbilanciato nel prevedere un'annata record per la raccolta dei cereali. Ora invece le stime stanno precipitando e gli agronomi parlano già di una perdita secca di almeno il 30% della produzione. La seconda notizia ve l'ha citata anche nella controcopertina, ve l'ha raccontata Enrico Pagliarini. Ribadisco, oggi è una giornata importante sul fronte dei grandi gruppi dei mobile device, della tecnologia portatile. Apple chiede a Samsung il risarcimento del secolo. Al via il processo, l'azienda di Cupertino accusa la rivale di aver copiato elementi importanti dell'iPhone e dell'iPad. La posta in gioco, scrive Massimo Gaggi da New York, va molto oltre i 2,53 miliardi di indennizi chiesti dall'Apple. Insomma, una vera e propria sfida all'OK Corral tra Apple e Samsung sul fronte della telefonia.